scienza del mattino. Davvero niente di nuovo. Dici che hai paura del buio e che andare lontano davvero non sai. Quattro scritte sul muro è tutto quello che hai. Gli eroi sono grandi bugiardi, gli eroi son bastardi e tu non crederci mai. Questa mia stanza e domani chissà.